era restituita dicendomi non si poteva riparare, non erano i finali, capito? Non si poteva riparare. Allora abbiamo tenuto sempre come ricevitore, questo è il problema fondamentale, bisogna dire le cose come stanno, non girarle in tondo, perché a me non mi piace girarle in tondo, così a Gianni capisco, l'ho già detto, guarda che non sono finali, allora comprate come ricevitore, capito? Se a te ti serve la carcassa o ti serve qualcosa dell'intorno, allora un altro discorso, ne stai comprando una vecchia e te la vuoi fare nuova, ma lì dentro, sul trasmettitore, c'è un problema molto, ma molto difficile da trovare, non sono i finali. Mossa. Vabbè, allora comunque non mi interessa il funzionamento interno, mi interessa più le scorte, questa roba qua. Il Gubacchi, abbiamo sapere massimiliano, gli vanno lì sul bordone. Vabbè, vedi tu già, sei grande vaccinato, fai il test, fai il camomilla, fai io comunque 140 mio, quello nuovo di pacca, l'ho venduto. Adesso c'ho 70 e 43. No, probabilmente non vorrò anche 70 perché sto prendendo una valle ancora più grossa delle fetti mille. Ancora più grossa delle fetti mille, che mi interessa più, mi tengo sempre la linea del 430, quella non si tocca perché non ce ne può nessuno. Però molto probabilmente il capri 70 sono trattative, 140 l'ho già fatto, 140 l'ho già fatto, nuovo dentro la scatola, mai da vetrina, mi è stato cambiato l'interruttore originale, nuovo, perché non ha 140. L'ho rivenduto, ho pagato neanche 200 euro e l'ho venduto al prezzo su, quindi va bene così, e riprendi i capri. Io qui in questo momento non mi interessa, non la mano comunque, hai capito, non ci devo andare, cioè la paese, se c'è il pittore ce l'ho, però non c'è il mare, hai capito, come ha fatto con te, chi è stato lì, hai capito, dopo non viene il tipo. Hai capito che anche Dio la può guardare, che Dio ha fatto la radio delle San Paolo, perché devo anche ordinare delle favole, oddio dalle radio che ci ha costruito lui all'epoca, a partire da questa, e adesso con le favole, grosso modo, si trovano tutto, ma alla grande ricevo che una bellezza, e faccio tanto la pena, vincono queste vie, che quella via è proprio un problema, che non controlla all'altezza, il fatto che lui ha fatto poco, San Paolo, però. E capito, se non la radio è dirigentito, non mi ha proprio detto che cosa, però niente, cosa so, e a quegli anni mi sono detto cosa fare, io metti tutto allo stadio nuovo, del trasmettitore, e il problema è il mio posto. Bravo, ci trovi chi dentro che si arriva da Marco, avete fatto meglio, non trovi chi va. lo sai. Non c'è nessuna con un graffietto, niente, ce l'ho. Allora, vedrai, rimpiazzo qualcosa di base perché mi manca l'occhio. Se lo fatto così, la base c'è la radio base, c'è la roba, adesso quando vado a casa del capito quando c'è qualcuno ad allarmi. Anche più di quello di Massimiliano, nuovo, più violento. ho visto anche oggi a 1 a 500 euro di 140 a prezzo proprio di questa cosa d'acqua che mi vento zero mi diria, ma che chiama già, hai capito? A me non mi interessa, io quando so come si chiama la cosa, ha capito benissimo che non parlare con valvolare, ha capito bene. Hai capito? Se lo fanno volentieri, dice, ah, no, ma che cosa ti devo fare? Come ho già detto, io ti la testa. Lui vuole guardare, intanto io, a lui c'è il mio tempo fatto. Poi c'è come si chiama, lui tra le 45 e 50. Altro perché non riesco, perché io sono un spazio pagato del genere. Negli anni 80, anche altri amici ci avevano già un vetro. E c'era ancora certe apparecchiature. Ok, io sono questo magonca, perché sono il tuo fatto, per il tuo fatto come andiamo, devo fare cosa, mandare la cosa alla regione, insomma, tanto è stato pensato e poi dovevo fare un modifico, c'è un casino nella banca, vestiti calzini, la cosa sua tutta, e la macchina l'ho messa al lago, perché era raggiungibile, la cosa da lunare, adesso sta aspettando, ma non mi darò da stupire, però, riprendi già. A me si dice, invece per andare all'ospedale a fare una visita, Marco, ho fatto il giro 50 volte, poi alla fine mi sono rotto le scatole, ho mollato mia moglie, gli ho detto di andare lì e poi quando aveva finito la visita li richiamarono, mi sono messo in seconda fila e arrivo qua. Attenzione agli ospedali, ragazzi miei, Poi mia moglie è qui al muro, sono fatto un coro delle ecografie, sono venuti da Cagliari per i reni, per il fegato. Sai già che a mia moglie tanti anni fa, sto parlando del 90, no, gli avevo diagnosticato questa cosa, una pietra enorme dentro la cisticella. Era stato un operato, lui non ha avuto il coraggio di operare e se n'era andato all'ospedale. Poi, lo sai, lui gli dirà adesso, lui ha fatto l'ecografia, non c'ha nessuna pietra della cisticella. Meno male che non si è operato, altro non fa di solo. Gli ha fatto vedere il mondo, non c'è niente signora. Lui è... E cosa fa qui che ha detto domani? In grado, lo zappico, capito? Però sta qua, l'altro, senza avere niente, senza avere non c'ha nulla. Ma tu lo vuoi sapere una storia già? Guarda già che quando me l'ha detto sono rimasto così. Era il quadrato, sì, c'ha una lettiera pulita, sempre quella doveva sempre da fondere la massa. E questi lì, questi dolori che... Niente, non c'ha nessuna pietra già, se non poco, se non la moda si è andata, se non ha un po' di paura, pensi. E non si è operata per fortuna già. Se io ce ne devo andare domani, le prendo parte mi passa dentro dove la faccio, dove c'è quell'ospedale, è capito già, nuovo, di fronte alle cliniche di San Pietro, perché entro a questo le tiro il collo, una pietra poi enorme, e questo è vissuta già, sempre l'hanno fatta l'altro, con la intesa che sta da questa pietra enorme nella cipitella, poi quelli che non lo stavano più volendo già, uno che c'è una roba del genere, intanto diventa giallo, diventa, ma te l'immagini, tra l'altro non mi ridire più perché anche mamma è andata in piedi fuori, non lo so già, oggi ero, non me lo da dire, mi hanno passato oggi una brutta giornata, riprendi. Allora, questa cliente è andata all'ospedale perché aveva un tumore al seno destro. Lo sai che le hanno tagliato il sinistro invece che il destro? E lei dice, io quello che lo posso sopportare è che mi hanno tagliato il seno che mi andava bene. E in più c'ho ancora quello col tumore. Anche io mi hanno dato i piedi fuori, è venuta qui la sera a prendersi il caffè a casa, era un po', adesso ho quattro più giorni sono di nuovo tra questa, sono morto in 20 giorni di iniziato, perché io già me la volevo riportare, mia sorella se ne scrive, e cosa ne so già se era vero che c'è già questa cosa, perché non era vero, ma se hanno iniziato con flebo, con cose, perché io era tranquillissima, era tranquilla. Hai capito? Io questo già sono dirandato la faccia ancora qui. Io sono tu una pietra nel cuore, io sono questa qui da 99 e vissuta con questa roba che sono una pietra, perché oggi hanno fatto la cosa e non c'è nulla anche noi. E poi era anche enorme, non era anche una pietruina, no? Una pietra con un calcolo consistente, hai capito che lo volevo può fare la bicicletta, ma come qua ha fatto il collo, l'ha fatto anche vedere, non c'è nulla signora. Ma riprendi Claudio. Poi mi ha lasciato oggi un pochettino, arriva diretto a mia moglie in Senato, se non devo la ricatta da mamma, non sono stata qui ancora. Sono stata sale, a... sale. Di cosa sta ancora il troppo a farlo lì? Con l'istante gli ha dato una camera, che si vuole morto, che si va. E anche lì c'era una lamentosa della zia, è giunta a stare tranquillo, era morto lì, vicino. Non lo sapevo chi di questo. Io non sono studiato in medicina, non sono, però ne fanno, cazzate che fanno tanto. Adesso già lasciamo per questa cosa, si vuole per una rilassarsi, oggi sono proprio un andando e... Allora, tu che conosci i microfoni, dammela quanto anche quello che ho sentato, questi microfoni vogliate più usarsi. Adesso qui c'ho, da parte della mano sinistra, un F10, dei due, quale migliore è il microfono? Grazie. Per me l'F10. Aspetta l'attacco, siamo sulla batteria, siamo io, sono più mio con l'attacco. La faccia sul 10, dai, che qua se devono parlare non ho spazio, dai, la faccia sul 10. Sì, Claudio, l'ho sempre detto, qua sul 10 siamo, mi vado giù, se mi attacco, dai. Prova a fare un passaggio lungo. Ora, 1, 2, 3, prova, gli ho messo una batteria a 9 che avevo, mio cugino me li ha regalati, lui per camionista, c'era la 48 già, e oggi mi ha fatto vedere anche l'Elbe che aveva all'epoca, mi voleva regalare anche tu, adesso c'è un bebiscicchi di questo, tieni, sì, non darmelo quello, tieni, che ti faccio piazzare tutto, quando ti tutti con me. Ok, questo è l'F10 già, meglio dell'altro esce, ora... Aspetta, provali tutti e due, così me ne ricordo come c'era, perché non lo ricordo più. Questo qua non c'ha molta amplificazione, probabilmente ha bisogno di un input per l'amplificazione, boh, ora è regolato, non lo so. Non lo so, io faccio ora è a massimo, guardi, cosa, la batteria l'ho presa, però la batteria era per provare, io ho messo la lingua e mi ficcava, quindi... Questo comunque l'F10, l'altro che avevo prima, quello con B che è l'M95, per un attimo, e cambiamo. E questo è l'M95 già, quello che ho fatto qua, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3. Questo è quello già, dico la verità. Per l'altro, era buono, l'F10, io me lo ricordo, l'F10 erano abbastanza forti. Solo che quello lì probabilmente ha qualche cosa, non amplifica, forse vuole regolare dall'interno, non lo so, questo sta amplificando bene, forte. Vabbè, domani quando vengo mi porto qui anche il Milan, ok, il Milan quello che ho messo. Il coro devo poi scappare, forse a Sassari, hai capito già, la radio odio non ho fatto nulla già, hai capito, devo uscire con mia moglie per farla a farsi in più, la devo, guarda, oggi, e passa la devo farmi andare, quindi so che erano le 6:10, che c'erano niente, perché sono detto, poi sono alle 2:30, per questa cosa che ho detto, che ero fatto il politico, della la radio, no, c'è un'altra cosa, perché ho detto il cazzo, di altra cosa che la parte non mi interessa, no, cioè sono le mie cose, qui devo entrare e uscire la roba, capito? Quei soldi che mi ha fatto il municipio, la cosa che la parola e non mi ha fatto il municipio una tappa per lo fare una persona. Dico, niente, è stata una giornata poi, ho iniziato a viaggiare alle 3:30, 4:30 e 5:30 e niente, poi sono andato più pure, passavo la sera, non fai niente perché sono già peso, peso proprio, non voglio stare tranquillo. Ma io stamattina già non sono potuto venire perché stavo cucinando, capito? Non facevo, non potevo lasciare la roba senza fare, poi alle 2 mia moglie doveva andare a lavoro. Cappa. E niente. Ma se tu domani devi scendere, a chi mi vai a Stanchivi, hai preca benzina, se devi scendere tu ci troviamo al quadrato a una certa ora, tu mi dici allora che scendo, mi fa una telefonata e io mi faccio trovare lì, capito? Ma io già devo andare solo lì, nel caso che faccio la telefonata, hai capito che devo andare, non sono sicuro che devo andare, capito? Perché se no la rimando questa data passata lì, hai capito? Perché se io non devo andare lì, devo spiegare che delle cose di... hai capito del Puma, devo dire, è una passata, però per andarci poi una o due volte non mi capo. Adesso vediamo come domani mattina ci organizziamo, sono tranquillo che la parete ce l'ho io qui, la risolviamo la roba, hai capito? Poi il microfono mi ha dato un altro e questo è stato già lo conosci, però non è un granché questo, è un Intec di quello che c'è la batteria da 1,5 già, già lo è di quello che sto parlando. Ecco, lui già mi piace, quello dai a me. Perché io non ti do l'altro, quello che ho buttato oggi, quello dell'SBE ti do da Palmo, preamplificato con la rotellina, col bottoncino rosso, quello lo può. Che cazzo. Vabbè, la vediamo, non c'è problema. Cosa stavo dicendo? Oh, vabbè, se vuoi che salga io, salgo io, cosa devo fare? Più per fricca benzina, ma nulla. Se no, se scendi, se io sono sicuro che tu scendi, ci troviamo in un punto, mi dici dove farti trovare, se devi andare da Globo, dove faccio trovare Globo. Non lo so, dove vedi tu? Vabbè, se no... vengo io così me lo fai vedere in funzione, non sei sa mai che mi vuoi fustita. Ma niente, ti hanno fatto fare nulla, quindi non ci prego, funziona alla grande, ti dicevo, dai, per quello sono tranquillo. No, perché ciò, una tavola non fa fare nulla già, che ciò, almeno domani è sabato, metà delle cose di oggi da risolvere. Metà delle cose di oggi da risolvere, già anche in macchina si può attaccare, va alla grande già, in ricezione, come ti ho detto. Passato la che nuova, niente, devo farmi togliere tempo che qui si sta collegata a far cose, capito, già lo so dove c'è la persona radio, hai capito, e niente, hai capito, domani devo risolvermi tutte le cose, oggi ho passato, aspetta a finire la raccomandata del giorno, l'ultimo giorno anche della luce, c'è quello del Puma, dove volevano capire di tutti i prezzi, vedi, se l'attività, le cose sono come l'anno scorso, che lo ha portato e niente già, guarda, una cosa che non finì mai, oggi ho saputo, ma ti avrei fatto venire, l'avevo mandato, l'avevo lanciato alla cravatta, hai capito, solo uno dice, sì, e fa, capito, pure ha avuto un impatto, niente, mi dovevo chiamare prima, io ti avrei subito avvertito già di, però lui io, stamattina, lo stavo aspettando, capito, dovevo proprio finito il servizio, dovevo far che di così, stavo aspettando lui stavo, hai capito, non sa con i figli, però è che all'arresto, vedere, ho incontrato gente che sta perdendo, è un macello, guarda, quindi non mi voglio rovinare la giornata, perché hai capito, c'è un viaggio solo di cose, per me io non è mezzo finito, quindi mi faccio tutte le cose gradatamente. Ma se tu che sei ansioso, io le stesse cose le faccio senza farmi venire l'ansia. Me ne sbrigo, sti cominuti, senza problemi. Ma io tu lo sai stamattina, sono guida di zinti, mi sono andato a prendere il numero all'ospedale perché dovevo fare una visita ossofisica a Marco. Poi è venuta mia moglie in ospedale, io mi sono pagato il ticket e tutto quanto. E poi è venuta mia moglie e ha preso Marco e gli ho dato tutti i fogli e lei era stata lì, io sono andata a casa, ho fatto un po' di pulizia, le cose di casa e poi mi sono messo a cucinare. E insomma, poi stasera lo stesso, siccome noi non ci accontentiamo, ecco dopo lo sbaglio, non bisogna mai andare solo da un dottore, bisogna sentire il parere di due o tre dottori, come faccio io. Stamattina abbiamo portato l'anortopico, stasera da un altro. Non mi ha che non aveva nulla, che poteva, che non aveva né più di piatti né niente cosa. Però Marco si stava mettendo che gli fa male sempre la schiena. Penso di fare una lastra perché forse c'ha la gamba di qualche millimetro più corta. Contributi, non te ne danno pensione. vecchiaia e una pensione a 70 anni con l'anno per forza. Ciao, l'ha detto. Ci avrebbe travagliato, poi gli avrebbe andato indietro. Come li spinerassi? Oh, già, mia casina. Già non è voluto dare a chi paga sempre. Figuraci a chi non paga. Paga. Però questa crucificata sociale forse questo per la pensione sociale io faccio del mulatto ho lavorato così qualche cosa poi ce l'avevo versato perché sapeva contare sapeva ma e poi non li ha versati tutti già non li ha versati tutti hai capito e niente però una pensione la prendo questa magari li versava si pagava spontaneamente, la pagati spontaneamente, come fanno certi. Per dire, ti paga due o tre anni, te li paghi spontaneamente e poi te ne vai in pensione. E ti è salvato il Queros. C'è una gente che ne è stata in ghippi per guadagnare, c'è gente che adesso non si può più fare, ma c'è gente che si è fatta ricca, se cosa faceva? Ti faceva dare dei prestiti bancari, magari al 2%, al 3%, quanto erano prima, e poi li metteva per dire dove fruttavano di più per dire le poste, si fruttavano al 9%, e si faceva i soldi così. Figliamo adesso è tutto sotto controllo già ancora dopo che iscriviamo quindi di queste persone curve diciamo che ne sono in giro però mi sembra che ne camperanno poche e capito qui non c'è nulla in giro già e c'è una crisi che non finisce mai non c'è niente non trovi niente niente di niente già, non puoi, hai capito, andare a sperare di trovare dei lavori, hai capito, come facevi prima, che andare qualche giornata, in una settimana si fa sempre bene o male, giusto per tirarti di su, però adesso proprio non c'è niente già, niente, questo te lo posso garantire, se non si sblocca l'edilizia, tutti i settori sono fermi. Ecco, l'alimentare è al di fuori perché mangiare devi mangiare sempre, quindi c'è la concorrenza, quello che vuoi, però anda sempre. E però già so cosa ti dico, il settore alimentare come stiamo parlando, è capito anche lì ha preso delle botte, perché la gente non fa la spesa come la fa prima, tenta di razionare le cose, anche lì già ne ha messo gente fuori dal giro, hai capito, parlando di commessi, di uomini addetti allo scarico, a tante cose, anche lì ne sono stati dimezzati parecchie, perché prima se non ti tiene già nei supermercati ce n'era personale, adesso non è così. Questo è vero, perché non si possono più prendere tante persone, tu pensa che ogni persona che prendi devi pagare il doppio dello stipendio che gli dà, se prendi 1200 euro devi dare 2004, perché tra assicurazione, questo e quell'altro, ti viene un altro stipendio. Tutto questo delle cose sono, hai capito? Però io non avrei fatto qualche come si chiama, avrei fatto contento a qualche negozio sulla strada di radio, a portare le radio nuove, un radio, hai capito tutti gli accessori, hai capito questo che avevo fatto un negozio di coraggio a Sassari, ma prima andavo sto scherzando, ma tutte le cose già adesso che iniziano le attività hanno poca vita prima, hai capito, quando c'era il bomb, che la gente lavorava con questi apparecchi, il bomb, c'è tanta gente che ha fatto i soldi, anche mai tante cose, adesso per esempio qui c'è il tecnico tipo non lavora più già, non lavora più perché quando tu vuoi fare decisione, massimo cose con lo è così la cosa, già che i tecnici stanno andando in via di estinzione, bisogna che ci avvattino a fare, capito, altra roba che, diciamo, che in quest'era e forse quelli dei computer sono forse gli unici che lavorano. Eh sì, il settore del computer però c'è molta concorrenza. Sì, perché non c'è altro, già tutti si buttano, capito, a fare queste cose, tutta quanta la roba adesso è a micro, diciamo, circuiti che non può lavorare, tipo la roba fa dalla robot, e quindi cosa succede? Non riguarda la cosa, con il tablet, hanno preso, ma ricordo, ci hanno buttato. E capiamo che mi hanno detto, perché se si mette un collo lì, ma così la vuole il tecnico. Ma qui anche per trovare anche il televisore che cambiava piatto, quello LCD, quello lì già, quello che si qua dovevo chiamare l'ingombrante, buttarlo qui invece, quegli altri, la prima, cioè il condensatore, la ripresa, il classista, lo facevano a posto, ma non chiedo tutti in giro. Tutta quanta la cosa che il progresso già ha rovinato tutto come si chiama il mercato e anche le professioni. Quindi già, ad esempio, anche gli uffici. Adesso, come si chiama, con computer fai un lavoro di un sacco di impiegati, invece prima, quando si lavorava manualmente, già impiegati c'erano di più, e poi tutto quanto questo per le fuori. Il progresso è quello, però anche il progresso molte volte rovina è quello che può dire forte già. Ciao ragazzi. Andiamo, allora un secondo che vado in bagno, devo cambiare l'acqua di olive. Dai, dai, già sono qui io, se ti tutto, faccio la solita sedia. Già, capito, così è, c'è la vita. Ho sette di comprare un bel apparecchio che mi sta venendo quella mania, mamma mia, che non rimita, questa è una droga. E non si brucia né di nè. Io ho anche il booster della macchina usato per modulare, va. Invece che l'alimentatore, il booster è quello per mettere in moto la macchina. Cava, cava. E vabbè, ma secondo me tu te ne dovresti comprare una completa, che ci abbia i laterali, tutto quanto, una bella radio, poi puoi avere anche quelle prestissime, va. E vabbè. Più libera doveva essere come frequenza, invece molta gente non entra perché c'è da fare l'esame, perché c'è da andare a casa, c'è da pagare un sacco di soldi, insomma, oppure chi non ha voglia di studiare. Io perlomeno adesso, come adesso, a parte vabbè non mi interessa, però non ho né tempo né voglia di studiare, la verità, non ne ho proprio di tempo. Lo sai tu, no, che ora rientro lo stanco, chiama la gara e tu calibri. Vabbè. Comunque la passione ci rimane. Capo, ancora io per me la sta preparando. Catala. Era più chiaro, più caro tra l'SDL, Tana e lo Schuller, perché ci possono mettere mezzo di migliori, dai. Cappa, cavagato. E ma tu hai avuto fretta, perché quel gara si, qua, ma i finali si trovavano a Sassari, a me me l'ha presa a Sassari vittorio. Quando me mi sono passati in finale il modulatore, me l'ha presa a Sassari. Cavagaggia. Beh, mi si sta chiudendo l'orbito. Vabbè dai, ci sentiamo domani già. E io adesso già sentiamo. Sono 9:30 perché alle 9:15 devo prendere l'antibiotico, devo essere a casa.